America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Italia chiamò, l'inno italiano cantato nella cattedrale di St. Patrick, dal coro della cattedrale di St. Patrick, con l'organo della cattedrale di sottofondo. Devo dire, quella di ieri mattina per me è stata una esperienza alquanto indimenticabile. Ho registrato direttamente per darvi un po' l'emozione della diretta. È stata una giornata molto bella anche dal punto di vista del tempo. Era una giornata bellissima, una giornata di autunno meravigliosa, pieno sole, tiepida, la quinta strada illuminata e la festa del Columbus Day, la festa degli italoamericani in America. Ecco, ho cercato di raccogliere un po' di audio dalla parata di ieri mattina per darvi un po' l'atmosfera di quel che succede per strada. Sentiamo. Ecco, questo signore, è tipico, poteva essere in un film di Scorsese, era su un grande carrozzone e cantava canzoni italoamericane. Un altro. Andrew Cuomo, annunciato, come avete sentito, partecipava alla parata e di sottofondo c'era Lasciatemi cantare di Toto Cotugno e molto folklore italiano, italoamericano. Ci sono delle comunità molto diverse qui negli Stati Uniti. Pensate, nel Bronx ci sono gli immigrati degli anni 70 che sono lì e sono fermi agli anni 70, sentono le canzoni di quegli anni. Ma qual è l'altra notizia di ieri? Che c'era un italiano che era il Grand Marshal della parata, quindi era lui che guidava la marcia. Un finanziere in parata, evento inusuale, però davanti ai 40.000 italoamericani c'era Alberto Cribiore, il Grand Marshal, era lui che guidava questa straordinaria parata, il più influente finanziere italiano a Wall Street per posizione, legami con la città e storia. La cosa curiosa è che come Grand Marshal della parata, di fatto Cribiore, bocconiano, ex Agnelli Boy con i fint di Gianluigi Gabetti, vice chairman di Citi, oggi è il vice chairman di Citi, è stato consacrato ieri come italoamericano dell'anno. Onore, devo dire, a cui molti dei nostri connazionali dovrebbero ambire alla luce della straordinaria importanza della comunità italoamericana negli Stati Uniti d'America. Ho visto Cribiore varie volte negli ultimi giorni, l'altra sera è stato celebrato al Caravaggio da un centinaio di amici per i suoi 70 anni e l'altra sera era al gala di preparazione con 1300 persone. Sul palco c'era un personaggio con cui in apparenza ha molto poco in comune. Era di fianco Angelina Germanotta. E chi è Angelina Germanotta? Pensateci, dovreste saperlo. Angelina Germanotta, in arte, è Lady Gaga. Dopo Frank Sinatra, di cui l'America celebra quest'anno il 100° anniversario, Maria Ciccone, in arte Madonna, oggi è Lady Gaga che porta avanti la torcia della nuova generazione. Ed eccola lì, sul palco con Alberto, a festeggiare un legame che i nostri cugini d'oltreatlantico sentono forte, che celebreranno di nuovo all'evento annuale del NIAF sabato prossimo, quando sarà premiato Sergio Marchionne. Ma io ho con me ai microfoni di America 24 proprio Alberto Cribiore. Buongiorno Alberto. Buongiorno Mario. Eccoci Alberto. Insomma, io credo, Alberto, visto che ci conosciamo da tantissimi anni, che possiamo facilmente darci del tu, non dobbiamo necessariamente essere formali, per cui ti chiedo subito. Alberto, tu hai guidato la parata su Fifth Avenue ieri. Io ho visto questa parata straordinaria, ti ho visto mentre arrivavi. Dimmi la tua emozione, la tua sensazione, cioè cos'è questa parata? Cos'hai vissuto in quel momento? Guarda, è stata un'esperienza veramente speciale, devo dire, al di là di ogni mia aspettativa. Trovare questa veramente marea, perché abbiamo occupato ogni centimetro della quinta strada, dalla 44esima alla 72esima, con italiani, italiani americani, con bandiere italiane, con cultura italiana, con affetto italiano, con tradizione italiana, e secondo me di tutte le strade del mondo la quinta strada, la 44esima alla 72esima, è il centro, è l'arteria centrale del mondo di oggi, di modo che questo flusso di italianità è stata una cosa assolutamente commovente. Ecco Alberto, un'altra domanda. C'erano una gran quantità di personaggi molto importanti fra gli italoamericani che hanno partecipato alla parata di ieri, personaggi importanti per gli Stati Uniti d'America. Mi riferisco al grande uomo d'affari, per esempio Ken Langone, Andrew Cuomo, il governatore, il sindaco Bill de Blasio. Ecco, non hai la sensazione che forse noi dall'Italia abbiamo un po' la puzza sotto il naso nei confronti dei nostri cugini italoamericani? Non è un errore? Ma sai... Hai perfettamente ragione e ti posso dire che io ero colpevole o sono colpevole quasi quanto tutti gli altri. C'è una grandissima realtà qua a New York e qua in America, perché non è solo New York, è in tutta l'America, che è questa comunità di italiani americani, Italian American. È difficile per noi che arriviamo dall'Italia poterci immedesimare in loro e nei loro valori. Arrivando qua a New York cerchi immediatamente di integrarti, di conoscere più americani, di conoscere più inglesi, piuttosto che guardare un attimo a quelle che sono le realtà più vicine a noi e che dovrebbero esserci più care. E invece, a mio parere, col passare degli anni, mi sto convincendo che gli Italian American sono un tremendo asset per il nostro paese, sono una tremenda capacità che noi italiani, non il nostro paese, perché diciamo sempre il nostro paese come se fosse qualcun altro. Mentre noi italiani dovremmo cercare di avvicinare di più e meglio, rendendoci conto che tutto questo è un tremendo vantaggio culturale che noi come italiani troviamo in questo paese. Ossia, gli Italian American credo che fossero il terzo più grande influsso di immigrati fino al 1925-27 in questo paese, e come tale avevano quel tempo e hanno avuto col passare degli anni un'importanza sia sull'economia, sulla giustizia, sulla cultura superiore a chiunque altro. A me fa molto piacere aver avuto questo ruolo come Grand Marshal del Columbus Day. Vedere tutte queste persone che si riconoscono come Italian and American marciare su Fifth Avenue è stato un qualcosa di molto molto bello. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più nei più difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di Lady Gaga, italo-americana del momento, e dunque di Angelina Germanotta. Vi propongo Born This Way. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. Che tutto! 28. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!